Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera da Maurizio Melis, andiamo a Roma, alla Sapienza, questa sera con Smart City per parlare del progetto Res Urbis che ha preso il via lo scorso 25 gennaio. Res Urbis sta per Resources from Urban Biowaste ed è un progetto finanziato nell'ambito del programma europeo Horizon 2020 che vede la partecipazione di 21 fra partner industriali, università ed enti pubblici ed ha lo scopo di individuare dei possibili processi, delle tecnologie per produrre prevalentemente bioplastiche a partire dalla frazione organica dei rifiuti urbani, intendendo sia la frazione solida, quella proveniente tipicamente dalla raccolta differenziata, sia la frazione liquida, quella intercettata dal sistema fognario. A coordinare il progetto c'è il professor Mauro Maione dell'Università della Sapienza che è in linea con noi. Buonasera Maione. Buonasera. Allora, senta, quella di produrre dei bioprodotti, diciamo così, in modo generico, a partire da rifiuti organici è una strada che oggi è abbastanza battuta. Questo progetto Res Urbis però ha una serie di peculiarità rispetto, diciamo, agli approcci che si vedono in questo ambito. Forse possiamo partire da queste peculiarità, da questi elementi, diciamo, di originalità. Noi abbiamo in realtà risposto a una specifica richiesta che veniva rivolta alla comunità scientifica e internazionale, proprio dalla comunità europea, che in una call del programma che sostiene l'economia circolare chiedeva appunto queste due cose, cioè se sia possibile pensare a delle soluzioni tecnologiche che comprendano oggi i vari scarti che vengono dalle aree metropolitane, quindi inclusi i fanghi, inclusi la frazione organica di rifiuti solidi urbani che tipicamente sono trattati con modalità diverse e con prodotti finali diversi. Quindi voi metterete assieme questi scarti, ci farete qualcosa mettendoli assieme? Sì, noi diciamo che proponiamo una tecnologia che può andare bene per entrambi, okay, e può consentire anche di metterli insieme. Okay. Le soluzioni sono varie, possono essere trattate insieme o separatamente, ma con una tecnologia che si adatta ad entrambe Perfetto. Le matrici che rappresentano i problemi principali della gestione degli scarti urbani. E la seconda cosa è che c'è una richiesta di valutare se oggi sia possibile ottenere dei prodotti a più alto valore aggiunto che non quelli che sono ad oggi la frontiera comunque virtuosa di questo sistema, cioè da una parte il compost e dall'altra parte il biogas, che rappresentano già un avanzamento rispetto a pochissimi anni fa, ma tuttavia la comunità europea chiede di valutare se si possa avere un valore aggiunto superiore, sì, con prodotti più diversificati che poi possano consentire degli sviluppi ulteriori sul mercato con delle ricadute appunto poi in circolarità complessiva del sistema. È un tema di cui abbiamo anche parlato, insomma il problema dei biocombustibili è che si vendono, diciamo, a decine di centesimi al chilo, per capirsi, insomma quello è il valore oggi di un carburante, più o meno al massimo l'euro al chilo, mentre qui parliamo di composti che possono valere molto di più, ordini di grandezza superiori addirittura, no? Noi abbiamo puntato la nostra proposta, su questo invece la CO lasciava liberi di decidere su cosa puntare e tra i progetti ce ne sono stati una decina, molti avevano, diciamo, tutte le qualità, diciamo il nostro era quello che proponeva una soluzione con il valore aggiunto, l'impatto potenziale dal punto di vista anche economico più alto, cioè di produrre una serie di bioplastiche, sì, a partire da un biopolimero che attualmente sul mercato ha un valore intorno a 5 euro a chilogrammo. Se pensa che il compost vale circa 5 euro, 10 euro a tonnellata, certo, è un valore non confrontabile. D'altra parte va detto che proprio uno dei problemi della diffusione del mercato di questo polimero è il suo costo eccessivamente elevato, perché ad oggi viene prodotto invece da matrici molto più pulite, quale sostanzialmente oggi è prodotto da glucosio. Quindi noi puntiamo da una parte ad abbassare il costo della produzione di questo polimero, ma in ogni caso, anche con innovazioni tecnologiche, questo valore rimarrà ampio, ecco, per giustificare gli investimenti e sarà un po' il motore poi di ulteriori... Ecco, ricordiamo che questo polimero, o meglio una famiglia di polimeri chiamati polidrossialcanoati, che hanno la caratteristica di essere totalmente biodegradabili, cioè sono come una tavoletta di cioccolato per alcuni microorganismi che sono presenti normalmente in natura. Senta, qual è l'aspetto più difficile dal punto di vista tecnologico che bisogna affrontare per vincere questa sfida, chiamiamola così? Beh, l'aspetto più difficile è che da una parte si parte da un rifiuto, quindi da un materiale che per natura intrinseca è eterogeneo e dall'altra dobbiamo fornire un polimero che diventa uno dei costituenti di un'industria di trasformazione che lo farà diventare una plastica, una bioplastica, e quindi che chiede ovviamente una risposta precisa, standardizzata il più possibile, di qualità. Quindi la parte, diciamo, del congelamento più complessa è avere un processo abbastanza flessibile, robusto e flessibile, e per dare una produzione diciamo abbastanza sicura sul piano della qualità del polimero. E in questa cosa l'estrazione del polimero dalle cellule è la parte più delicata. Per affrontare questo non proponiamo una sola soluzione, ma una serie di soluzioni che richiedono purezze a scala decrescente, così da poter avere collocazioni sul mercato per prodotti di diverso tipo in funzione del tipo di prestazione che riusciamo a ottenere. Questa parte è molto articolata e sarà sicuramente la sfida tecnologica più complessa da vincere. Va bene, grazie, grazie professor Maione. Buonasera, grazie a lei.